America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, buongiorno Simone. Siamo al countdown per il 50° anniversario dell'assassinio di John Kennedy. Avrete sentito parlare, avrete letto mille storie su questa ricorrenza che si terrà domani. E dunque oggi vorrei dedicare questa trasmissione al cuore del problema, e cioè, ma c'è davvero un complotto o no? Perché il 75% degli americani, adesso un po' meno, ma fino a un paio d'anni fa, pensava che la verità fosse diversa da quella ufficiale, e cioè che Lee Oswald, l'assassino di John Kennedy, quel 22 novembre del 1963, non avesse agito da solo, ma fosse parte di un complotto. It was a violation of the most basic protection codes we have, and it is the best indication of a massive plot in Dallas. Oliver Stone, JFK, un film che ha fatto epoca e che ha contribuito, devo dire, non poco a questo 75% di perplessi. È una citazione, quella che vi ho proposto, in cui si dice: c'è stata la violazione dei più elementari codici di protezione che abbiamo, ed è la prova migliore di un massiccio complotto a Dallas. Beh, devo dire, Oliver Stone è un personaggio controverso, l'ho conosciuto in varie occasioni, ho discusso a lungo con lui, anche in modo polemico, devo dire, quando in un documentario più recente ha cercato di convincerci che il leader venezuelano Chavez fosse un santo. Devo dire, Oliver è un uomo molto simpatico, molto intelligente, e però, insomma, in questo suo film forse è andato leggermente al di là del dovuto. Hi Oliver. Mario. Mario. Eccolo Oliver, in una delle tante conversazioni che abbiamo avuto, mi conferma che assolutamente c'è stato complotto e che nulla gli ha fatto cambiare idea. Beh, devo dire, mi è venuto in mente un momento subito dopo l'uscita del film nel 91. C'è stato un dibattito organizzato da Victor Navaschi del magazine The Nation, un magazine della sinistra, in un grande teatro a New York, a Broadway, dove a dibattere Oliver Stone c'erano anche Nora Ephron, la grandissima sceneggiatrice, ideatrice di soggetti americana, e Edward J. Epstein, che è uno forse dei principali, dei maggiori esperti in materia di assassinio di John Kennedy. Perché? Perché Epstein è l'unico ad aver intervistato un po' tutti i protagonisti che fanno parte di questa storia, da Garrison, il procuratore che gioca un ruolo chiave nel film di Oliver Stone, fino a agenti segreti russi, ad agenti cubani che si trovavano in Brasile. E vi dicevo, Epstein, pungolato da Navaschi, ha davvero imbarazzato Stone, il quale si era presentato con un assistente, con una gran quantità di carte, osannato dal pubblico. Eppure Epstein ha smontato punto per punto la sua tesi. The reason that the Kennedy assassination has remained an iconic mystery, which the entire world wonders about, is so many things went wrong. How did Oswald get back from Russia to America? Why didn't the FBI investigate him? Ed Epstein l'ho intervistato qualche tempo fa proprio per cominciare a parlare dell'assassinio di Kennedy, e cercheremo di sentirlo domani. Sarebbe molto interessante avere la sua testimonianza nel giorno della ricorrenza. Ebbene, Epstein che cosa mi disse? Ma qui in fondo Oliver Stone è un grande regista, è un grande artista, e per definizione nel momento in cui fai un film, qualche tocco di fantasia ce lo devi mettere. E il risultato, dice, è che però lui ha costruito una farsa, perché ha dato intanto grande credibilità a Garrison. Mi ha detto che lui ha intervistato più volte, è l'unico ad averlo intervistato, Stone non l'ha mai visto né conosciuto, e si è accorto che Garrison, insomma, si era, come dire, inventato nel fervore del momento molte cose. Ma un altro esempio della falsificazione messa in atto da Stone, secondo Epstein, è il personaggio di David Ferry, che è interpretato da Joe Pesci nel film, un pilota accusato di aver complottato con Oswald per l'uccisione di Kennedy. Secondo il film, Ferry, poche ore prima di essere ucciso, confessa di lavorare per la CIA, di essere stato ricattato da Clay Shaw e di aver lavorato con Oswald e con i cubani anticastristi per preparare l'omicidio. In realtà, dice Epstein, Ferry si è sempre dichiarato innocente, ha sempre negato queste accuse. Inoltre, la sua morte è avvenuta per cause naturali, ma questa è solo una delle tante manipolazioni versioni del film. Oliver Stone inventa uno dei testimoni al processo, Willie O'Keefe, interpretato da Kevin Bacon, sostituisce alla verica una testimonia di Garrison, Perry Raymond, russo, che si scoprì fu ipnotizzata per ricordare fatti inesistenti. Insomma, la trama, il complotto sono affascinanti. Pensate che un giornalista scrittore americano che si chiama Vincent Bugliosi ha fatto una statistica e ha identificato complessivamente 42 gruppi, 82 assassini e 214 persone che, secondo questo quel complottista, avrebbero concepito l'assassinio di Kennedy o semplicemente aiutato Oswald ad uccidere Kennedy. Beh, sappiamo i sospetti principali in varie forme sono ora i cubani, ora i russi del KGB, la mafia, la CIA, persino l'FBI come vendetta del leggendario Edgar Hoover, che vedeva i Kennedy come il fumo negli occhi, e persino il vicepresidente Lyndon Johnson. Ma ve lo immaginate, ma come si fa a dire che Lyndon Johnson poteva essere un complottista per uccidere Kennedy? Ecco, questo è il quadro d'insieme. Avrete capito come la penso. È possibile che ci sia stato un collegamento di Oswald con i cubani, è possibile che abbia avuto qualche influenza, qualche aiuto, ma la sostanza è che in quel palazzo, nel Depository Book Receipt di Dallas, al sesto piano c'era soltanto lui, Lee Oswald, e il suo fucile di precisione di manifattura italiana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Soprattutto oggi scrivetemi su Twitter, @MarioPlatero. Voglio i vostri commenti. Fate parte di coloro che credono al complotto o no? Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, una canzone particolare, la voglio dedicare ai momenti migliori di John Kennedy, questo presidente che è riuscito a catturare l'immaginazione degli americani, eroe nella vita, eroe nella morte, è dunque uno dei momenti più particolari, più felici, che hanno contribuito alla leggenda di questo uomo straordinario, Marilyn Monroe, che gli canta Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Da New York è tutto, Simone a te la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.